Il giorno di Natale a Roma nevicò e questo fu per il Grimaldi la sola ragione d'allegria. Il cortiletto si faceva bianco, le mimose incantivano, anche i bambù acquistavano nobiltà da quel candore. Pareva spuntassero finalmente i fiori tra le foglie ostili. Piove tutta la notte, poi invece, al mattino, dapprima trasparente e impalpabile, poi veloce e fitta, la neve cade per molte ore di seguito. Infine, quando tutto fu bianco, cessò. La malinconia delle ragazze sembrava essere blandita da quell'albore che le riportava verso anni innocenti e dimenticati. Fissavano la neve calare, morbida, in bioccoli, e rivedevano l'ovatta che si posava sui loro alberi di Natale quando erano bambine. E stavano sospese in attesa di qualcosa, come quando, allora, attendevano impazienti fuori la porta del salotto dentro il quale papà trafficava con le lampadine e i fili elettrici attorno al presepio e mamma avvolgeva i doni nella carta velina rosa. Vergognose di lasciarsi sorprendere nei ricordi, cercavano di apparire allegre, ma era un'effervescenza che si placava presto. Ognuna si chiudeva di nuovo nei propri pensieri. Cercavano soltanto di tenersi legate perché dal patire comune nascesse una sorta di forza rasserenatrice. Vinca diceva: «Fino a ieri credevo di soffrire per la lontananza dal mio paese, ma adesso ho capito, è Luis. Papà mi ha scritto che ormai in Spagna si vive in calma, se voglio posso tornare». E io mi sono sentita agghiacciare all'idea di partire. E poi ho dato la colpa alla matrigna e pensavo: «È perché non voglio tornare a vivere con loro». Tu non puoi capire, ma è terribile vedere una ragazza giovane che ha quasi la tua età, che è la moglie di tuo papà, e ogni sera si chiude in camera con lui, dove dormiva la mamma. Sai, ha 2 anni soltanto più di me. È buona, vorrei averla per amica, ma così per me è come se mio padre si portasse in casa un amante. E invece mi sono accorta che non è per lei, è per Luis. Ieri, quando gli ho detto parto, ha risposto: «Beata te, non avrei mai pensato che mi abbandonassi tanto presto, però fai bene ad andare». Mentre mi parlava così ero decisa a partire. Che gliene importa? Pensavo. E invece, tornando a casa, ho scritto a papà che resto qui a studiare. E avevo in me una rabbia profonda verso Luis, una così potente ribellione al fatto di non poter agire come voglio, per cui subito ho capito che è finito. Non sono più io, mi è caduta la tegola in testa. Sono innamorata. Terminato il pranzo, rimasero a discorrere quasi per ritardare l'approssimarsi di un pomeriggio vuoto. Che può fare chi è solo in una città il giorno di Natale? Tutto era bianco oltre le finestre, il riflesso della neve illividiva i volti delle ragazze. Già cominciava a tacere. Suor Lorenza s'avvicinò e disse loro: «Cantiamo». Le sentiva lontane. Dopo la fuga di Xenia temeva di non possederle più. Aveva capito che tutte, in fondo, non desideravano che liberarsi, uscire. La sera andava a toccare il cancello per assicurarsi che fosse ben chiuso e certe volte neppure dormiva, l'orecchio teso. Una notte le era sembrato di udire passi scendere cauti le scale, raggiungere il vestibolo. S'era vestita in fretta ed era scesa ravvolta nello scialle, neppure la cuffia in testa. Ma tutto era normale. Dietro le porte delle ragazze c'era sonno e respiro. «Sì, cantiamo». Le ragazze stavano sedute, in piedi in mezzo a loro Suor Lorenza batteva il tempo con le mani. Tutte avevano voglia di cantare. Il canto le riportava verso anni trascorsi, anni leggeri, sereni. Cantavano senza guardarsi, fissando un punto nel vuoto. Ad ognuna, nella mente, s'apriva una casa che le altre non conoscevano, volti, abitudini ignote. Si riposavano nella maestosa vecchiezza del canto appreso da bambine, e intanto guardavano battere le mani della suora che placavano l'amarezza comune. Quando fu finito, nessuna si mosse. Anche la suora restò con le mani incrociate, come se dovesse ricominciare, finché Emanuela, levandosi di scatto, chiese: «E adesso?» Augusta fece: «Andiamo in camera mia». Alle 5 mangiarono i fichi secchi del cesto di Silvia. Bevvero il vino delle tenute di Anna, si fecero portare le castagne arrosto, a poco, per il loro fiato, si fece più caldo nella stanza, un caldo animale. Perfino Milly, che era sempre pallida, aveva le gote accese. Riscaldate dal vino, le ragazze parlavano eccitate, facevano progetti per il futuro, narravano degli interessi comuni, come se le case che stavano in Puglia, in Sardegna, in Toscana fossero una sola casa comune. Vinca descriveva la sua casa, che era vicina a quella di Luisa, a Cordova, e diceva della pena che entrambi avevano in questi giorni ad essere fuori di Spagna. Io sono abituata, è il terzo anno, ma lui... Valentina l'interruppe bruscamente, come seguendo un suo pensiero. Che fa lui? Ti sposa? Che ne so. Non so neppure se veramente mi vuol bene. A volte torno a casa convinta che mi adora, altre volte che si diverte con me e poi sposerà quell'altra. Quale altra? Sol, una che c'è in Spagna. Sol? Sole, vuoi dire? Domandò Milly. Già. Che bei nomi avete voi laggiù, Sol. Se mai inteso un nome più bello. Vinca tacque, infastidita, e Valentina insisteva: Io lo saprei se mi ama. Storie, come faresti? Beh, se ti ama, ti sposa. Ah, davvero? E se invece amasse me e sposasse quella che sta laggiù? Sta vicino a casa sua. I loro poderi formerebbero una bellissima proprietà sotto l'occhio compiaciuto dei parenti. Io non ho niente, niente. E studiando così, davvero non prometto di guadagnare. Soltanto gli uomini ormai arrivati nella vita possono sposarsi una ragazza senza un soldo, e neppure quelli lo fanno. Lo ha fatto papà, per esempio, il quale non pensava che a quella ragazza e non ha avuto pace finché non l'ha avuta con sé, ogni ora, ogni gesto per lui. È una forma di egoismo. Avarizia, anche quella. Per i giovani il matrimonio è come una seconda laurea, quella che serve di più. Ma lui sei un artista, osservò Silvia. Anche per questo. Doppiamente per questo. A un architetto che fa la fama e sarà affidata tutt'al più la costruzione di un pollaio razionale, e quello rimane contento perché porta a casa qualche giorno di pagnotta per la moglie e i ragazzini. Chi oserebbe affidare meno della costruzione di un ministero a un architetto che si presenta nella sua 8 cilindri e quando ti invita a pranzo hai il servitore in guanti bianchi che ti cambia i piatti? Da noi ce ne saranno molti di ministeri da ricostruire. E Sole è ricca? Che ne so, chi la conosce? È certo che lo sarà. Che interesse avrebbero i genitori di Luis verso una ragazza povera? Milly l'interruppe. Mi fai sempre male, Vinca, quando parli così. Ella sedeva accanto a Emanuela, per lei soltanto era venuta su. Spogli le cose di ogni poesia. Non pensare a nulla, ama il tuo Luis. Che importa il resto se le vostre anime sono vicine? Voi potete andare a passeggiare insieme. Tu parli certe volte di aver percorso con lui bellissimi sentieri e ne riporti le foglie, ce le mostri e poi ora ti amareggi così. Perché lo amo e penso al futuro. Prima mi piaceva di lui soltanto quella nostra lingua spagnola, era un pezzo di casa mia che mi sentivo vicino, per quello mi lasciavo baciare. Adesso ho capito che gli voglio bene e che farò sempre ciò che lui vorrà, contro tutto e contro tutti. Se è così, io non capisco come tu possa dire di amarlo adesso soltanto. Si può coltivare l'amore come una pianticella sul davanzale? Già, la pianticella era sul davanzale, ma io non avevo ancora aperta la finestra. Non ti capisco. Silvia le interruppe. Come potreste capirvi? Anna chiese a Vinca. Perché oggi non sei uscita con Luis? Ecco, brava, tu oggi va a capire se mi ama. Dice che doveva uscire con gente di architettura. Su questo tacquero e ripresero a far cricchiare le bucce delle castagne. Poi Milly disse: Beh, ognuna di noi ha una diversa maniera di pensare all'amore. Qualcuna anche, fece Augusta, non vi pensa affatto. Non è vero, ribatté Vinca, soltanto c'è chi lo confessa e chi no. Perché dici questo? Soggiunse Silvia. Augusta ha ragione. Vinca insisteva scrollando la testa. Ipocrisia, ipocrisia! Hai confessato fino a ieri che nessuno mai ti ha guardata. Tu ammetti che questo mondo esiste, poiché ti accorgi che ti esclude. E cerchi di convincerti che sei tu a tenertene fuori. Allora ti butti nel lavoro. Il lavoro è per te un surrogato dell'amore tra uomo e donna. Ti dai a lui come a un uomo. Sei venuta a dirci che avevi il posto da Belluzzi, avevi una faccia. Non te ne sei accorta che per la prima volta avevi un viso da donna? La tua femminilità si esaurisce nel cervello? Bisogna bene che quell'esuberanza che è in noi vada a qualche cosa, se non si vuole passare nella vita come un gatto o un cane. È vero, ammise Valentina. Vinca insisteva. E quando esci dalla tua stanza dopo aver scritto 4 pagine della tesi, oggi quella, domani altra cosa, hai la faccia scomposta, stanca. Scommetto che ti senti la stanchezza sotto gli occhi, nelle gote, vero? Proprio come quando io esco dal cinema con Luis. Vinca! E perché t'offendi? Da bambine eravamo ugualmente innamorate di qualcosa. Un oggetto, magari la maestra di scuola, una compagna. L'amore è in noi fin da quando si nasce, allo stato potenziale. Io mi scrivevo il nome di una compagna, Bellita, con la punta di uno spillo sulla pelle di un braccio. Non gliel'ho detto mai, naturalmente se vi penso adesso ne rido. Beh, tutti abbiamo fatto cose simili, fece Augusta. E Valentina si sforzò di ridere. C'è un'aria di confessionale qua dentro. Silvia giocherellava col lapis, assaporava lentamente il vino, poi disse: Hai ragione, Vinca, quasi m'hai offeso. Volevo alzarmi e andarmene, ma no. Hai ragione, la sola cosa che io possa è lavorare. Ma sentite, a costo di studiare e logorarmi gli occhi tutta la vita, alla fine io riuscirò. Seguitavano a confidarsi. Da principio sembrava avessero tutte un po' di pudore delle loro aspirazioni. Poi a poco mettevano la carne al vivo, perfino si avvicinavano, si toccavano, per meglio comunicare. Finché Silvia osservò: Però è bello stare a discutere così tra noi, tutte donne. Se ci fosse un uomo, non avremmo osato parlare. Neppure davanti a mio padre io avrei potuto, anzi, con lui meno che con gli altri. Noi donne siamo sincere soltanto tra donne. C'è una solidarietà singolare tra noi. Intorno alla donna che sta per avere un bimbo, le donne accorrono per un istintivo bisogno di solidarietà in quel momento che loro soltanto patiscono. E l'uomo si sente respinto, scacciato quasi, e non sa più dove volgere lo sguardo. Nessuna di quelle che è lì ha pensiero per lui, appena gli rispondono. Non è così? C'è sempre ostilità verso l'uomo, se non altro quella di non poter fare a meno di lui, non fosse che per nascere. È l'harem, disse Valentina. Credete che non fosse onesto e giusto l'harem? Anche gli uomini hanno i loro conciliaboli segreti, osservò Anna. Da noi al paese, dopo la cena, gli uomini accendono il sigaro, mettono il cappello, dicono vado al caffè e vadono dalla famiglia. In famiglia sono circondati da donne, vanno anche loro a parlare di quelle cose che a noi non dicono mai, come noi a loro. Quando papà è uscito di casa, io e la mamma parliamo più liberamente. Sì, è vero, fece Augusta. Direi che usiamo perfino un'altra voce. Avvicinate, unite, Millie ed Emanuela ascoltavano, senza prendere parte, l'una per l'eccessiva timidezza, l'altra perché sempre si sentiva infastidita da questi discorsi, come una persona che ha il dono della vista in mezzo a un gruppo di cieche che brancolano. Tu pensi che si debba restare oneste? D'improvviso Valentina chiese. Io penso, Silvia rispose, che l'essenziale nella vita sia prendere una strada e seguirla fino in fondo, anche se è sbagliata, purché si abbia fede che sia la buona. E allora Emanuela s'accorgeva di andare qua e là, incerta, nel buio. Le sembrava di essere come una spia in campo nemico, è travestita così bene che i nemici, poveracci, non se ne avvedono e l'accolgono tra di loro, le fanno dividere la mensa, le dicono che hanno paura della battaglia e quella li ascolta, anzi, dà loro colpetti sulla spalla, sulle mani, per far coraggio e non dice che sa già ciò che li aspetta. Emanuela le defraudava della sua rispettabilità. Vivere con loro significava essere una ragazza onesta, niente accaduto, stava a Roma come loro per studiare storia dell'arte. Stefani al mattino, dopo aver preso da lei tutti quei giocattoli, era scappata via subito, dicendo appena Au revoir, mamma. Stefi, neppure grazie, mi dici? E la bambina l'aveva guardata con stupore. Che m'hai detto che è stato il bambino Gesù? Lei era in realtà un personaggio che non esisteva. Due Emanuele false. Quella che assisteva ai torturanti discorsi delle compagne e quella che bussava al collegio della figlia. Tutta l'esistenza sulla bugia, come andasse in giro con un nome falso. Qual era lei, insomma? Ma era sua davvero la bambina? In fondo non ci appartiene che quello che la vita e la gente ci riconosce, se si ha 1 milione sotto il materasso e nessuno lo sa, è come essere poveri. Non parli? Le chiese Anna. Vi sto a sentire. È uno strano Natale. No, Silvia fece, è il solo Natale che possa esservi per noi. Un Natale senza tradizioni, senza precedenti né seguito. Sarebbe inutile preparare l'albero, agghindarlo e conservare poi le palline di vetro colorato. Non tutte saremo qui l'anno prossimo. Ecco, è come se noi fossimo al passaggio di un ponte. Si costruiscono forse case sul ponte? Siamo già partite da una sponda e non siamo ancora giunte all'altra. Quello che abbiamo lasciato è dietro le nostre spalle e neppure ci voltiamo per guardarlo. Quello che ci attende è una sponda dietro la nebbia. Eppure noi sappiamo cosa scopriremo quando la nebbia si scioglierà. Qualcuna si sporge a guardare il fiume, cade e affoga. Qualcuna, stanca, si siede per terra e sul ponte si addormenta. Le altre, quale bene, quale male, passano all'altra riva. Brava! Rise Manuela. È un bel pezzo di letteratura. Ma le altre tacevano, perplesse. Zitta! Disse piano Augusta. Non senti che ha detto una cosa vera? Parte seconda. Millie morì in primavera. Peggiorava da qualche tempo. Ma nessuno se ne accorgeva. Spinta dal desiderio dell'aria nuova e leggera, si levava dal letto, si metteva a studiare accanto alla finestra, studio, armonia. Nessuno sapeva precisamente che cosa quella parola armonia significasse, ma pareva fatta per Milly. Adesso che le sere si allungavano, dopo le lezioni, le ragazze vagolavano per le strade rincorrendo la stagione. Il cielo terso stava alto sulle case. Si ritraeva d'attorno ai campanili. Nel giardino delle suore, un albero di mimosa lasciava salire alle finestre un odore polveroso di stoffa profumata. Le ragazze, per questo forte sentore, si passavano la mano sulla fronte quando studiavano. Tutte prendevano i ricostituenti per lo sfinimento dato dalla stagione. Augusta era stata la prima a dare l'annuncio. Un giorno a colazione aveva detto solennemente: «S'è svegliata Margherita. Mi sono alzata presto stamani e l'ho trovata che, uscita di sotto il comò, s'era portata in mezzo alla camera». Poi, guardando oltre i vetri il sole calare nel cortiletto, aveva aggiunto: «È primavera!». Verso la fine di marzo, Milly aveva chiamato Emanuela e le aveva detto: «Ho paura di stare peggio». Ma quella in fretta l'aveva convinta: «Oh, anche io ho una mollezza nei ginocchi e mi fa male il cuore, come te. Certi palpiti affrettati e senza ragione. Ma questo è il fermento della nuova stagione, non preoccuparti». Milly insisteva: «Sarà così, come tu dici, ma io sento che sto peggio. Ieri la suora ha detto che vuole scrivere a papà. Se scrive mi verrà a prendere subito e se torno con lui a Milano muoio davvero. Ci sono molte cose. Sarebbe difficile spiegarti, dovresti conoscere mio padre. E poi io sto in vita per quelle lettere, sai? E lì non potrei più riceverle, così so che è lontano e non potrei in alcun modo vederlo. Lì, quando suona a San Babila, quasi posso sentirlo dalla finestra, tanto è vicino. Poi qua è già primavera. Là sarà inverno ancora per un pezzo. La mia camera guarda un cortile grigio dove scorre un'acqua monotona. Non voglio tornare a Milano. Tu devi aiutarmi, Emanuela. Le suore ti ascoltano. Parlerai, vero? Sì. Sì, parlerò. Nessuna delle ragazze si preoccupava della malattia di Milly. Non erano forse 15 mesi che era tra di loro e sempre malata? Perché non usciva fuori a godersi il tiepido del sole piuttosto? Perché non andava a sedersi alla villa? Anna, che rimaneva in casa a studiare per la tesi, spesso saliva a tenerle compagnia. La trovava sempre vicino alla finestra, un cosino di lana sulle spalle. Anna soltanto si era accorta che Milly impallidiva. Ne parlò alle altre a tavola. Quelle mandavano giù cucchiaiate di minestra e dicevano: «Va bene, dopo cena andremo a trovarla». Ma prese dalla rinascita della stagione, non potevano pensare alla malattia della compagna. Ridevano, parlavano ad alta voce. La malattia di Milly rappresentava per loro un momento di meditazione, come una preghiera. Non sempre avevano voglia di farlo. Nessuna pensava che Milly potesse morire davvero. La sua normalità di vita era appunto in quella fragilità, quel platonico amore col cieco. Pure Emanuela la evitava. infastidita da quella mania che aveva la ragazza di prenderle le mani, di lisciargliele a lungo mentre discorrevano. La infastidiva quel suo continuo parlare di morire. Si sarebbe detto che se ne compiacesse. Forse era un vezzo, e perciò talvolta neppure si prendeva la pena di compatirla. Distrattamente ascoltava coi suoi eterni racconti di Milano e del cieco che suonava. Il dottore non veniva più. Le aveva riempito il marmo del comò di boccettine che la ragazza neppure toccava e le converse spolveravano ogni mattina. Anni, aveva detto il dottore, o un giorno. Ora Milly era tranquilla, suo padre viaggiava di frequente e non parlava più di farla tornare a Milano. Il cieco le aveva mandato una fotografia ed ella la mostrò ad Emanuela misteriosamente. È lui! Era un uomo già anziano, grigio, col viso grassoccio e la bocca femminea, gli occhi coperti dalle lenti nere. Cos'è una fotografia senza sguardo? Ah! Fece Manuela e non seppe dire altro. Ma Milly non aspettava risposta. Riprese la fotografia, vi passò sopra la mano con gesti da cieca. Una fotografia già un poco gualcita. Una notte Manuela si svegliò al rumore di passi che affrettati andavano su e giù nel corridoio. Si sedette sul letto in ascolto. S'apriva, si chiudeva l'uscio della camera vicina. Balzò dal letto e corse in vestaglia. Era stata male, molto male, Milly. Il lume era di nuovo fasciato di azzurro e lei respirava a fatica, ma tranquillamente, come se quello fosse il suo modo abituale. Vedendola, sorrise e disse: Anche tu ti sei alzata? Grazie, ma bastava soltanto una persona, una che venisse a mettermi questo cuscino dietro le spalle. Era seduta sul letto come una bambina che vogliano costringere al riposo e abbia voglia di giocare. Andate, badava a dire continuamente, andate. Suor Lorenza invece rimase l'intera notte sulla poltrona. Emanuela vegliò un poco anche lei, poi, quando vide Emilia addormentata, tornò in camera sua. Stava meglio il domani. S'alzò, si mise a copiare certa musica col sistema dei ciechi. Sempre si muoveva con quei gesti bendati. Dava i brividi come l'improvvisa apparizione di una sonnambula. A sera, Emanuela, scendendo a pranzo, la lasciò seduta in poltrona. Vuoi che rimanga ancora? No, no. A che scopo? Ho finito di copiare Bach per lui e vedi, sto bene. Adesso rileggerò la lettera, arrivata stasera. Dice che forse verrà. Se verrà, potremo uscire insieme. Sarà come ai giardini reali. Va, Emanuela, va. Le disse questo duramente, già rassettata nella poltrona, lo scialletto sulle spalle, la lettera sui ginocchi. Poi aggiunse pentita: Grazie. Quando Emanuela, dopo la cena, risalì da lei con Silvia, aprì adagio la porta e la trovò con la testa riversa, le mani aperte sul foglietto e gli occhi fissi nel vuoto. Milly, chiamò piano, ed un subito, spaventata, afferrò il braccio di Silvia. Milly! Chiamò ancora in fretta, strozzata. Poi corsero a chiamare le suore. La voce si propagò in un attimo. Milly! Milly! Soltanto il nome. Nessuno osava dire è morta. Suor Prudenzina nel corridoio prese la mano della ragazza più prossima, gliela strinse fino a farle male e intimò: Ordine! Prima di tutto, ordine! È inutile affannarsi oramai. Le ragazze, raggruppate nel corridoio, spiavano il taglio di luce che passava da sotto la porta. Suor Lorenza era entrata dentro con Emanuela e Silvia e aveva richiuso l'uscio. Milly era immobile, gli occhi fermi nel vuoto. E però quello era un suo atteggiamento consueto, tanto che sembrava dovesse a un tratto muoversi e ridere, come se avesse finto tutto ciò per burla. Ma Milly non usava scherzare. Pare ancora viva, disse Manuela e pensava che veramente viva non era stata mai. Una suora accorsa con l'aceto e le pezze aveva capito che tutto era inutile. Sul comò la bacinella esalava un odore acuto. Suor Lorenza, dopo aver toccato il corpo della ragazza ancora una volta, disse: Bisogna far presto, molto presto, è già fredda. Suora, prima la lasci vedere alle compagne. È impossibile, Silvia. Noi di lettere, suora, solamente noi. Prima della risposta, Anna, Augusta e Vinca erano entrate. Valentina rimaneva nel corridoio, resistendo a Silvia che la voleva far entrare per forza. No, no, mi fa impressione. Non voglio vederla così, povera Millie. L'altra quasi la tirava per il braccio mentre le domandava con sprezzante meraviglia: Non vuoi vedere la nostra compagna? No, credi, non posso. Anche altre due o tre entrarono, una di musica che faceva il corso con lei e Loretta che studiava medicina, ma non si accostavano. Trattenute da un orrore fisico, restavano sull'uscio. Già Millie non era più la loro compagna, ma una morta. Aprendo grandi gli occhi, guardavano curiose quella cerea immobilità, sempre più la fissavano avidamente per ritenere quell'immagine, tuttavia nell'intimo desiderose di allontanarsi. Soltanto Vinca piangeva. Le altre, abbattute dalla disgrazia, fissavano Millie come attendendo da lei la spiegazione di quello che era accaduto. Ma se d'un tratto ella si fosse rivelata viva, mai più avrebbero avuto il coraggio di toccarla. Le converse arrivavano con panni bianchi, catinelle acqua. Suor Prudenzina frugava nell'armadio per trovare il vestito, le calze. La roba di Mili era divenuta già dominio degli altri, cose che erano appartenute ad una persona morta, roba senza padrone. Quando tutto fu pronto, Suor Lorenza disse: Adesso andate, ragazze. Ed esse, senza opporsi, indietreggiarono, guardando nella stanza finché poterono. Videro due converse avvicinarsi a Millie, alzarle le braccia. Poi la porta fu chiusa. Nel corridoio, le ragazze a gruppi contro il muro o nei vani delle finestre chiuse parlavano severe e frettolose. Passavano le suore con gran fruscio di vesti e le ragazze le seguivano con gli occhi finché non scomparivano in camera di Millie. Silvia ed Emanuela avevano dovuto ripetere tante volte com'era avvenuta la scoperta. Millie abbiamo chiamato e quando abbiamo inteso che non rispondeva abbiamo subito capito che era morta. Ma come stava lei? Come stava? Così, riversa, ma lo sguardo? Sbarrato, fisso, uno sguardo di vetro. Oh, è orribile. Come stava? Non ho inteso io, come stava? Sì, quando io e Emanuela siamo entrate abbiamo chiamato Millie. Ma tu l'avevi lasciata poco fa. Sì, anzi, mi aveva detto va, Emanuela, va pure. Dietro la porta si udiva spostare il letto, muoversi persone, passi affrettati e già cauti da camera mortuaria. Quando una conversa passò con due candele e si fece nel corridoio un reverente silenzio. Poi le ragazze ripresero a chiedere a Emanuela: Dicevi che stava con gli occhi aperti? Loretta raccontava: Sì, pure l'altra mattina all'ospedale. L'infermiera entra in corsia per fare la sveglia e ti trova una che non risponde. La chiama, la scuote, proprio così, il cuore. Morta e già fredda, 23 anni. Augusta pensava, a quest'ora Millie già sa cosa c'è dall'altra parte. Non ha capito nulla, meno male. Deve essere terribile dirsi tra poco muoio e subito, appena dato l'ultimo respiro, mi trovo nell'aldilà. Chissà se l'anima fatica per liberarsi dal corpo come da una guaina stretta o se si solleva di un balzo, simile a un palloncino al quale abbiano tagliato il filo e trovarsi di colpo davanti a Dio, come sarà? È terribile a pensarci. Forse Dio è seduto in trono in mezzo a un accecante biancore di nubi gonfie e Milly se lo trova di faccia d'improvviso. Al vederla così, con quei capelli biondi, angelica come noi la conoscevamo, certo Dio le dirà: Entra, sei un angelo. O può essere che Dio sappia altre cose di lei, i suoi pensieri che noi non potevamo conoscere. E un Dio terribile come Mosè, armato di folgori, le dirà i suoi peccati senza misericordia e poi le indicherà una strada in discesa. Millie prenderebbe a camminare, raggiunta da un calore, prima blando, poi insopportabile. E infine l'urlo di Millie si perderebbe insieme all'urlo di una moltitudine di peccatori. Silvia sostiene che non c'è nulla di là. L'anima si spegne in un soffio come una candela e dove essa era accesa piomba il buio. Ma non è possibile. Pensa Augusta con spavento. Non è possibile che tutto quanto si lotta per affinare il proprio spirito, per renderlo aguzzo e nitido, migliore, che la nostra sofferenza, i nostri sforzi, lo studio, il denaro, l'ambizione, tutto si dissolva così nella tenebra. Millie adesso conosce la verità. Poco prima quanto? Poco più di 2 ore, ella era andata a salutarla. Come ti senti, Millie? Stava bene, sorrideva. E adesso tutto era finito per lei, anche la musica. Quando la porta si aprì, cadde una luce gialla e calda sul pavimento del corridoio. Le suore si fecero da parte e lasciarono passare le ragazze. C'era odore di aceto, di spirito e di cera calda. Millie era composta sul letto, i capelli sciolti, ma già parevano di stoppa, non più suoi. Le compagne intorno, gli occhi sgranati. E a un tratto Valentina, che piangeva forte nel fazzoletto, guardò le compagne tremando come per chiedere aiuto e poi cadde svenuta. Loretta e Anne la sollevarono. Fuori, mormoravano le altre. Fuori, fuori. Nella sua camera si riebbe odorando l'aceto dei 7 ladri. Le suore attorno a lei erano come indemoniate. Che c'entrava ora questa commedia? No, suora, non posso dormire sola. Non mi lasciate sola, supplicava disperata. Dormirò io con te, fece Anna. E Valentina le si abbracciò. Emanuela, Silvia, Augusta e Vinca restarono a fare la veglia e il rosario tra le mani senza pregare.